21. La liberazione di una schiava. Al termine delle lezioni, quel pomeriggio, Anna andò a cercare il negozio di Naikodah Ibrahim. Non ebbe molte difficoltà perché era in quella parte di città chiamata Piazza Musulmana, dove si trovavano tutti i mercanti di tessuti indiani. Il suo era un negozio ricco, pieno di sete, profumi e candele. Naikodah era un indiano alto, con gli occhi buoni. Anna chiese di parlargli in privato e fu condotta in un appartamento sul retro del negozio. Quando seppe che sua moglie e suo figlio erano a palazzo, si riempì di gioia, ma quando fu informato delle loro disgrazie, non poté trattenere le lacrime. Quella sera, una delegazione di musulmani, capeggiata dal mullah Ajay Baba, passò da Anna. Insieme scrissero una petizione indirizzata al re, che Anna consentì a consegnargli il mattino seguente. Lo stesso potere invisibile che l'aveva portata da Lore sembrava ancora al lavoro, perché ben presto venne convocata alla sua presenza. Portava con sé la petizione e un dono, un libro intitolato Curiosities of Science, le curiosità della scienza. Il re fu contento del libro ed estremamente gentile mentre lei gli consegnava la petizione. La lesse attentamente e gliela restituì dicendo: faremo indagini sul caso. Sua Maestà mantenne la parola, ordinò al capo dei giudici delle donne del palazzo, Sua Signoria Kun Tao Ap, di cercare informazioni. Questa decisione rese felice Anna perché considerava il giudice un'amica e sapeva che era scrupolosamente equanime. Per ordine del re le portò la petizione che i musulmani avevano firmato. La trovò nella sala, il tribunale che si trovava su un lato della prigione. Appena Anna entrò, il giudice alzò gli occhi dal rotolo di pergamena su cui erano scritte le leggi che stava studiando. «Ah, è lei, ma'am!» disse togliendosi gli occhiali. «Desideravo parlarle!» «Da parte mia», disse Anna con più audacia di quanta ne provasse, poiché per questa donna così inflessibile provava quasi la stessa soggezione delle donne dell'harem, «ho qualcosa che desidero sottoporle!» «Sì, lo so, ha una comunicazione da fare che è già stata presentata a Sua Maestà. Bene?» La sua richiesta è accolta. Accolta? Come? Chiese sbalordita Anna. Lore è libera di lasciare il palazzo? Oh no, ma la lettera di Sua Maestà ci dà l'autorità di procedere contro Chao Chom Manda Ung. Ma pensavo che la sua autorità si estendesse a tutte le donne del palazzo. Sì, in un certo senso, noi abbiamo il diritto di costringere le donne del palazzo a presentarsi alla nostra presenza, ma queste grandi signore non apparirebbero personalmente a meno che non fossero convocate da una lettera del re come questa, spiegò. Troverebbero una scusa e non verrebbero. Vedendo che Anna era ancora perplessa, chiarì quello che Lore aveva già spiegato in parte. Chao Chom Manda Ung, madre del figlio del re Ung, apparteneva a una delle più importanti famiglie di Bangkok, oltre a essere stata una moglie del defunto re. L'influenza della sua famiglia a corte e la sua posizione erano tali che in pratica era immune agli ordini di tutti, tranne che agli ordini specifici del re, che naturalmente erano legge per tutti. Inoltre, la sua unica figlia, la principessa Butri, era stata una moglie del re ed era tra le favorite. Lei era stata l'insegnante della defunta regina, la madre del principe Chulalongkorn. Kun Tao Ap mandò una delle sue donne sceriffo a convocare Chao Chom Manda Ung, la principessa Butri e la schiava Lore. Passarono 2 ore prima che la vedova e la principessa facessero la loro comparsa. Erano accompagnate da un imponente seguito di schiave con tutto quanto potesse essere utile alle loro padrone durante il processo: ventagli e cuscini, scatole per il betel e vassoi di rinfreschi. Lo sceriffo, inchinato molto profondamente, seguiva la processione a debita distanza. Le grandame si adagiarono sui cuscini di velluto ricamati, sistemati dalle loro schiave. Anna le guardò con curiosità. Erano entrambe piccole, dall'ossatura delicata e molto simili, se non per la differenza d'età. Da loro emanava un'aria di autorità e di insolenza malcelata nei confronti del giudice. Ma Kun Tao Ap non ne fu impressionata. Gli occhi dolci nel viso appesantito non persero la loro espressione distaccata. Solo le sue mani affusolate sistemarono gli occhiali come per vedere meglio le donne che aveva davanti. Le osservò per un momento e chiese: «Dov'è la schiava Lore?» La vedova consorte gettò un'occhiata maliziosa al giudice, ma non rispose. Si diede da fare a sistemare una presa di tabacco sotto il labbro inferiore prima di iniziare a masticare il betel che una schiava prostrata le aveva offerto. Nel silenzio della corte, quella muta sfida riecheggiava più forte delle parole. Nella sala aperta era riunita una folla di schiave e di bambini, accovacciata sui talloni, nelle posizioni più disparate e vestita con ogni tipo di straccio. Anna, guardando in su verso le teste ispide, fu profondamente scossa dall'espressione delle loro facce. Una di loro aveva sfidato le grandame del palazzo e non riuscivano a credere che sarebbe riuscita a ottenere la libertà. Videro il disprezzo sul volto della vedova consorte e della figlia. Con ansiosa concentrazione, evidentemente sbigottite dalla sua temerarietà, spostarono lo sguardo su quello austero del giudice nel tentativo di decifrare la sua espressione enigmatica. La regina vedova aveva appena sfidato apertamente il giudice. Avrebbe davvero osato cun tao ap? Gli sguardi fermi ardevano di speranza. Deliberatamente, dopo aver letto con voce chiara la lettera del re, il giudice chiese: "Potete dare una ragione per cui la schiava Lore non è stata emancipata quando ha offerto di pagare il prezzo pieno della sua libertà?" Tutti gli occhi del gruppo in ginocchio fuori del padiglione abbandonarono la faccia del giudice e si fissarono su quella della vedova. Lei parlò con difficoltà, lottando per controllare la rabbia che la scuoteva. Dalla punta dei capelli ai piedi la sua persona esprimeva scherno verso il giudice. La schiava Lore è nata in schiavitù. Noi non vogliamo liberarla dal momento che è utile a nostra figlia. L'espressione di Kun Tao Ap si fece più severa, più impassibile. Ignorò la scortesia calcolata dell'altra donna e parlò con voce lenta e misurata. È legge e tradizione di questo paese che gli schiavi abbiano il diritto di riscattarsi. La regina vedova strillò con voce acuta. E cosa succederebbe se ogni schiavo al mio servizio dovesse portarmi il prezzo della propria libertà? Tutti gli occhi si spostarono di nuovo sul giudice, la quale sedeva calma sul suo pezzo di stuoia. Ogni orecchio si tese per ascoltare la risposta. Allora, signore, replicò con enfasi, sareste costrette a liberarli tutti, è la legge. E servirci da sole? Gridò la vedova, senza riuscire più a controllare la rabbia. La voce del giudice era fredda come acqua di lago. Sì, mia augusta signora, rispose inchinandosi. Un sospiro percorse la folla acquattata fuori del padiglione. Chao Chom Manga Ung si fece molto pallida e tremò leggermente. Con tono misurato, Kun Tao Ap continuò, ignorando sia l'eccitazione crescente della folla, sia la rabbia ribollente delle signore. La schiava Lore desidera essere libera. È desiderio della Kru Yai liberarla e Sua Maestà ha espresso la volontà che questo venga fatto nel rispetto della legge sulla schiavitù. Quindi, dichiaro e decreto che la schiava Lore non sia più schiava di Chao Chom Manda Ung, ma proprietà della Kru Yai. Decreto inoltre che il prezzo del riscatto sia di 40 tical. La vedova guardò Anna con disprezzo. Che paghi adesso il prezzo e la schiava sarà libera per sempre dal mio servizio. Anna era abbattuta, non aveva portato con sé tutto quel denaro. Ma il giudice si rivolse a lei direttamente come se la meschinità della vedova non fosse degna della sua attenzione. Adesso lei è la padrona di Lore, farò preparare i documenti per la dica. Porti il denaro domani e sistemeremo tutto. Oh, grazie, grazie. Anna si alzò con le ginocchia addoloranti e tremanti, si inchinò con freddezza alle gran signore, ma loro la ignorarono. Questo non la preoccupava minimamente, il suo cuore esultava e per una volta tornò a casa raggiante. Il giorno seguente si presentò di nuovo a corte. C'erano solo tre giudici con parecchi sceriffi, donne o pacum. Kun Tao Ap le consegnò la dica che liberava Lore e ordinava a una pacum di andare con lei per assistere al pagamento e alla liberazione. Ancora una volta Anna passò per i vicoli tortuosi ed entrò nella strada misteriosa che terminava con la porta d'ottone. Il cuore le batteva rapidamente mentre l'apriva. La schiava era ancora incatenata, ma il cortile della casa vuota era pieno di gente. Il cuore di Anna batteva trionfante. La principessa Butri e Chao Chom Manda Ung erano sedute, circondate dalle amiche. Fingevano di non avere notato la presenza di Anna, ma non avevano osato non presentarsi come lei temeva. La Pakum era timida ed esitante, così timorosa delle conseguenze di compiere il suo dovere, che alla fine Anna avanzò da sola, aprì la borsa e ne estrasse 40 pezzi d'argento. Non aveva ancora finito di posarli davanti alla donna, che lei li spinse via col piede in segno di disprezzo. Rotolarono sul pavimento. Anna ignorò la provocazione infantile e tenne gli occhi fissi sul viso della donna. Borbottando, la vedova ordinò che Lore fosse liberata e le venisse permesso di andarsene. Una donna scura e massiccia, un fabbro, si avvicinò alla schiava e tagliò la catena. Lore finalmente era libera, ma con grande stupore di Anna non si mosse. Quando le catene caddero, lei si lasciò cadere per terra e giacque inerte con le mani giunte, in segno di supplica davanti ai suoi persecutori reali. Anna fece un passo avanti e le parlò, ma da lei non uscì alcun suono, come se le catene fossero state tolte dalle sue gambe, ma non dalla sua mente, lasciandola inerme come prima. Anna era confusa, percepiva delle correnti sotterranee che le passavano accanto, il cui significato le sfuggiva. Sentiva, come le era capitato spesso nell'harem, che stava camminando pericolosamente sulle sabbie mobili. Le nobildonne nel cortile chiacchieravano animatamente senza guardare la schiava prostrata o Anna, mentre quest'ultima si alzava, decisa a non farsi abbindolare, una donna con un bambino le passò alle spalle e con voce a stento udibile le bisbigliò: «Le hanno portato via il bambino!» Ecco, non aveva previsto questa manovra. Le nobildonne avevano programmato con abilità e malizia, dovevano liberare la schiava dal momento che lo aveva ordinato il re, ma non era stato detto niente del bambino. La donna, sempre all'orecchio, aggiunse: «Torni indietro, chieda di comprare il bambino!» Non c'era nient'altro da fare. Tornò indietro, sola e triste, temendo che la causa fosse persa. Lore non avrebbe lasciato suo figlio e Anna non sapeva se per lui c'era speranza. Kunta Wapper, ancora seduta sulla sua stoia in tribunale, quando Anna la raggiunse, le sottopose il caso. Non disse nulla, ma aprì un cofanetto, ne estrasse un rotolo e si diresse verso la casa dalla porta d'ottone. La scena era la stessa di quando Anna se n'era andata. Quando ritornò con il giudice, la folla di donne spinse ansiosamente, tutti gli occhi scrutarono per vedere cosa sarebbe successo. Il magistrato si inchinò rispettosamente alle signore e lesse dal rotolo scuro: «Se durante la schiavitù una donna ha figli, anch'essi saranno schiavi e lei dovrà pagare per la loro libertà come per la propria, il prezzo di un neonato e di un tikal, e per ogni anno di vita si dovrà aggiungere un tikal». I termini precisi della dichiarazione produssero un forte effetto sulla folla, mentre le dame rimasero impassibili. In segno di simpatia, molte scatole per il Betel vennero allungate verso Anna, mentre in coro le chiedevano di pagare il prezzo. Lei attinse dalla prima e posò 4 tikal davanti alle nobildonne nel cortile. Le dame si rimirarono con maggiore attenzione nei loro specchi. Il giudice, vedendo che non volevano restituire il bambino alla madre, mandò una pakum a prendere il ragazzo. Entro mezz'ora il piccolo era tra le braccia della madre, la quale volse al cielo un volto che era l'immagine della gioia stessa. Poi madre e figlio si inchinarono cerimoniosamente davanti alle signore, che mostrarono di non accorgersene. A questo punto Lore cercò di alzarsi e camminare, dapprima non ci riuscì e rise della propria goffaggine. Mani amiche la misero in piedi mentre lei zoppicava, allontanandosi in mezzo a una folla esultante alla cui testa c'era il giudice. Alla sua debolezza e difficoltà a camminare non diminuirono il suo splendore. Il viso premuto contro il bambino mormorò: «Come saremo felici! Anche noi abbiamo un giardinetto nella casa di tuo padre. Il mio Tuk giocherà in giardino, inseguirà le farfalle nell'erba e io lo guarderò tutto il giorno». In qualche modo misterioso, la notizia si era divulgata fuori del palazzo. Prima che Anna, Lore e Tuk avessero superato il cancello per dirigersi al fiume, furono circondate da una moltitudine di malesi, indiani, siamesi e alcuni cinesi, che si erano tolti le fasce e le avevano trasformate in bandiere. Poi, con un esercito di bandiere di vari colori al seguito, Lore e suo figlio vennero issati su una barca che le portò a casa. Il giorno seguente, Naikodah Ibrahim passò da Anna per restituirle i soldi che aveva anticipato per la moglie e il figlio e per informarla che il nome di quest'ultimo era stato cambiato da Dolore a Libero. 22. La morte di Fa Ying. L'effetto del ritorno quasi miracoloso di Lore alla casa del marito fu sorprendente. Immediatamente Anna si ritrovò famosa. Schiavi che entravano a palazzo per affari raccontarono la storia ai negozianti che la riferirono ai clienti. Alcune delle grandame dell'interno si lamentarono amaramente con le loro famiglie di fuori. Che sarebbe successo, dopo tutto, alla società se una schiava poteva domandare e ottenere la libertà solamente perché aveva il denaro? Da quel momento in poi Anna ebbe nemici potenti tra la nobiltà che la sospettavano di idee rivoluzionarie. Ma questo lo avrebbe appreso più tardi. Nella primavera del 1863 era cosciente solo della gente comune. Si prostravano davanti a lei quando passava, quando alla sera era seduta in giardino, strisciavano da lei con le petizioni. Nella scuola, nel tempio, trovava al suo posto e sulla sua sedia fiori intrecciati come collane. Era come se la gente umile del palazzo e della città, quelli che quasi non avevano nome perché avevano solo quelli che erano stati dati loro, rosso, nero, grasso o loto, avessero udito una campana che annunciava un nuovo giorno e avessero alzato la testa nella speranza di qualcosa di meglio di ciò che avevano conosciuto. Prima della fine, questa nuova fama doveva dimostrarsi pesante prova, persino pericolosa. E il cuore di Anna continuava a essere straziato dal dolore dell'impotenza. Lei continuava a dare, prendendo dal suo modesto stipendio e anche attingendo dal suo capitale nel tentativo di alleviare le sofferenze che quotidianamente si trovava di fronte. L'angelo bianco la chiamavano con soggezione. Va a casa dell'angelo bianco e lei ti aiuterà. Era il messaggio di speranza che gli oppressi si sussurravano all'orecchio. Soltanto una settimana dopo la liberazione di Lore, l'attenzione della corte si spostò da Anna ad altre faccende. Lei ne fu sollevata. Il re e il suo seguito furono impegnati dalla cremazione del principe Witsanunat, il secondo figlio di Sua Maestà. Era nato prima che il re entrasse nel sacerdozio, dalla prima moglie del re, e perciò non era nella linea di successione. Era stato molto vicino al padre e ne gestiva da anni le proprietà private. La sua cremazione dunque era un evento importante. La scuola venne sospesa per una settimana per permettere ai figli del re di partecipare alle cerimonie e alle celebrazioni. Anna era lieta di un po' di tregua, le dava il tempo di mettersi in pari con la corrispondenza privata e di insegnare a Boy, oltre che di occuparsi della casa. Il pomeriggio del 14 maggio si trovavano in giardino quando Louis, il suo Boy, gridò: «Mamma, guarda!» indicando eccitato il fiume in direzione del palazzo. Una delle chiatte reali, lunga e piena di rematori, in mezzo al traffico fluviale, stava avvenendo a gran velocità verso di loro. Quando accostò, una schiava scese correndo in direzione di Anna con una lettera che recava il sigillo del re. L'aprì e lesse: «Mia cara signora, la nostra amatissima figlia, la sua allieva preferita, ha un attacco di colera e provi un forte desiderio di vederla. L'hanno udita di frequente fare il suo nome. La prego di esaudire il suo desiderio. Temo che la sua malattia sia mortale dal momento che ci sono state 3 morti da stamane. È la più amata dei miei figli, il suo afflitto amico Maha Mongkut.» E la schiava aggiunse una supplica. «Signora», pianse, «tre schiave del seguito della principessa giacciono morte. E Fa Ying è stata colpita stamattina. Piange che vuole vederla. Per favore, faccia presto.» Anna si fermò solo il tempo per spiegare a Louis che non poteva accompagnarla, che doveva stare con Bibi, non andare da nessuna parte e non mangiare niente che non fosse cucinato da lei. Poi salì sulla chiatta, sentiva freddo nel cuore e aveva le mani bagnate di sudore. La barca sembrava strisciare sul fiume. Apprese che la principessa era andata con altri figli del re a teatro e a vedere i fuochi artificiali che facevano parte delle cerimonie della cremazione della sera precedente. Sembrava che stesse perfettamente bene. Nelle settimane passate c'era stato il colera in città, come ogni anno, ma nessuno ci aveva badato troppo perché non era una cosa grave. Adesso Anna incitava i vogatori, che già remavano controcorrente allo stremo delle forze. Quando raggiunse i pesanti cancelli, le sembrò che si aprissero con lentezza esasperante. Arrivò nella stanza della principessina senza fiato. Il dottor Campbell del consolato britannico era in piedi accanto alla porta. Scosse la testa, sconsolato. Con la bocca formulò le parole, ma non emise alcun suono. «Sta morendo.» Fa Ying giaceva su un materasso al centro di un tappeto. Sopra di lei un baldacchino con le zanzariere. Intorno al letto parenti e schiavi cantavano con triste insistenza Pra Arahan, Pra Arahan, il più sacro dei titoli del Buddha, che viene ripetuto alle orecchie dei morenti finché la vita se n'è andata, per ricordare all'anima di andare in paradiso e di non perdere la strada. La vecchia principessa Lamom, che aveva cresciuto la bambina, era prostrata sul pavimento ai suoi piedi, sembrava troppo sopraffatta per fare altro che sussurrare le sacre sillabe. Anna strisciò vicino al letto, col cuore a pezzi e gli occhi pieni di lacrime. Non a lei, di tutti i bambini del palazzo, non a lei. Fa Ying aprì gli occhi, la riconobbe, allungò le braccia. Anna strinse la bambina al seno, che si accoccolò accanto a lei con un debole sospiro e rimase immobile. L'insegnante chiuse gli occhi nel tentativo di scacciare le lacrime. Quando li aprì di nuovo, Fa Ying era morta. Anna baciò il viso delicato, pensando con un morso di dolore che i canti erano inutili dal momento che la piccola non avrebbe più perso la strada. Depose il minuscolo corpicino sul materasso e si drizzò. Il significato del gesto raggiunse le persone nella stanza. Il canto di morte fu seguito da un'improvvisa esplosione di lamenti. Si alzarono lentamente nell'aria del pomeriggio e furono raccolti dalle persone dell'harem inginocchiate sul pavimento esterno. Anna poteva sentire il lamento acuto riecheggiare fievole nelle strade dell'interno mentre la voce si diffondeva. Era stupita della rapidità del colera. Solo ieri Fa Ying era viva e felice. Solo poche ore prima aveva incarnato tutto quanto era caro a suo padre e molte delle speranze per il futuro della sua insegnante d'inglese. E adesso se n'era andata portandosi con sé il suo fascino e le sue promesse. Una delle tante donne implorò Anna di andare dal re per informarlo. Nessuno di loro osava portare la terribile notizia che la figlia prediletta era morta. Venne condotta alla sua presenza. Il re era seduto nel suo studio, ancora con i vestiti che aveva indossato per la cremazione del figlio. Era appena tornato dall'aver acceso il falò. Mentre entrava nella stanza, Anna cercò le parole per dargli la notizia con delicatezza. Non ne trovò, ma non servirono. Lesse la notizia sul suo viso e, coprendosi la faccia con le mani, pianse con disperazione. Lacrime strane e terribili sgorgavano da un cuore che a volte sembrava arido e pietrificato al punto da non contenere altro che una straripante coscienza di sé. Che poteva dirgli lei? Sedeva impotente, ma non voleva andare via, non voleva lasciare il re solo con il suo dolore. Nessun altro aveva osato avventurarsi nella stanza con lei. Era pomeriggio tardi e dalle finestre entrava l'ultimo sole. Il grande orologio della torre vicina suonò le 6. Il re, con il viso sprofondato nelle mani, piangeva la sua bambina, chiamandola con teneri nomi come se fosse stata sulle sue ginocchia. Mentre Anna ascoltava, le lacrime scesero sulle sue guance. Rimasero per un'ora senza quasi parlare, vicini nello spirito. In quella stanza non c'erano un insegnante d'inglese e un imperioso monarca orientale, ma un uomo e una donna che insieme piangevano la scomparsa di una bella bambina che entrambi avevano amato. Poi Anna silenziosamente si allontanò. Passò la notte prima che il re si fosse sufficientemente ripreso per andare nella sala dove il corpo di Fa Ying giaceva su un cuscino di seta bianco con pesanti frange d'oro. La principessa Lamom era ancora prostrata ai piedi della bambina e non voleva farsi consolare. Quando il re entrò silenziosamente, si avvicinò a lui sul tappeto e posò la testa ai suoi piedi, lamentandosi: Futo, futo! Nella stanza tutti piangevano. Senza parlare, con mani tremanti, il regale padre prese il corpicino tra le sue braccia e, secondo il cerimoniale, lo bagnò, versandovi sopra acqua fredda. Fu seguito dagli altri membri della famiglia reale, dai parenti e dalle donne dell'harem che si occupavano di lui. Ognuna procedeva nell'ordine del proprio rango e versava acqua da una brocca d'argento sul corpo minuto. Due sorelle del re poi lo fasciarono in posizione seduta, stringendolo con lunghe strisce di stoffa incerata, coperta di profumo, incenso e mirra, e poi lo avvolsero in un bel lenzuolo. Tutto quanto doveva servire a preparare il corpo della principessina reale per il suo riposo. Era comparso silenziosamente e come d'incanto nelle mani di coloro che dovevano occuparsene. Quando i preparativi furono ultimati, tutti strisciarono verso il corpo, ripetendo il saluto formale. Pai Sa Wan Na, Ciao Fa Ying Cha, vai in cielo, Ciao Fa Ying. Dopo i commiati, tre giovani vestite di bianco portarono le urne d'oro. Il corpo venne delicatamente posato nella prima e questa a sua volta fu messa nella seconda, che era di oro più fine e più riccamente adornata di pietre preziose. L'urna interna aveva sul fondo una griglia di ferro e quella esterna, nel punto più basso, un orifizio attraverso cui i liquidi del corpo avrebbero potuto essere estratti giornalmente per mezzo di un rubinetto. Questi preparativi erano strazianti per Anna, che non li aveva mai visti prima, ma si consolò pensando che non potevano comunque disturbare il riposo e la tranquillità della fanciullina che se n'era andata. La doppia urna fu collocata su una portantina e condotta al riparo di un ombrello reale al tempio del Mahaprasat, dove venne collocata sopra una piattaforma alta 2 metri, circondata da sottili candele accese e lampade con oli profumati che pendevano dal soffitto. Queste luci avrebbero bruciato notte e giorno per i 6 mesi che dovevano passare prima della cremazione. Il re aveva seguito il corpo della figlia prediletta dal palazzo al tempio, con l'angoscia dipinta sul viso. Durante la cerimonia sedette in disparte, la testa tra le mani, mentre trombettieri e suonatori di conchiglie eseguivano le loro lugubri melodie. Insegne del rango della principessina furono sistemate in ordine formale sotto l'urna ai suoi piedi, poi i musicisti diedero l'avvio a un canto lamentoso che terminava in modo triste e solenne. Dopodiché, Sua Maestà e tutto il gruppo dei reali si ritirò, lasciando i resti mortali dell'amata Fa Ying nella tranquilla bellezza del Mahaprasat. Ma non era completamente sola. 3 volte al giorno, all'alba, a mezzogiorno e al tramonto, i musicisti venivano a suonare il requiem per l'anima della morta, perché potesse volare in alto dal rogo profumato a cui era stata riservata e far ritorno ai suoi genitori adottivi, l'oceano, la terra, l'aria e il cielo. Donne a lutto si univano ai musicisti per piangere la prematura scomparsa della bambina, esaltandone la bellezza, la grazia e le virtù. Tra una cerimonia e l'altra, 4 sacerdoti a cui veniva dato il cambio ogni 4 ore cantavano le lodi di Buddha, supplicando lo spirito della bambina: vai oltre, vai oltre! E spingendolo velocemente attraverso il labirinto che aveva davanti, attraverso cose alte, profonde e famose, belle e brutte, verità ed errore, tra saggezza e follia, dolore e sofferenza, speranza, gioia, amore, morte, attraverso mutabilità senza fine. Nell'immutabilità. 3 giorni dopo il re emanò un proclama per i suoi amici stranieri per annunciare la morte della sua figlioletta. Alcuni giorni più tardi, la stessa chiatta reale che era venuta per chiamare Anna al letto di morte di Fa Ying, con le stesse schiave arrivò di nuovo a tutta velocità a casa sua. Sua maestà esigeva immediatamente la presenza della signora inglese. «C'è qualcun altro con il colera?» chiese preoccupata. Non le risposero, sembravano in preda a una piacevole eccitazione. Quando arrivò al padiglione della scuola, lo trovò addobbato con fiori. La sua sedia era stata dipinta di rosso e sullo schienale, sui braccioli e sulle gambe erano stati intrecciati fiori freschi. I libri di Fa Ying erano posati con ordine sul tavolo, al suo solito posto davanti ad Anna. Accanto ai libri c'era un mazzo di rose e di gigli. Sconcertata e interessata, Anna cercò di capire qualche indizio del significato di quanto accadeva dalle donne dell'harem che brulicavano intorno. Alcune le sussurrarono che stava per esserle conferito un onore straordinario. Incerta e piena di apprensione, accettò di sedersi sulla bella sedia. La vernice era appena asciugata e lei era preoccupata all'idea di rovinare il vestito. Boy, con il tradizionalismo dei piccini, protestò nervosamente. Entro breve un messaggero del re giunse a chiedere se Anna era arrivata. Non appena seppe che era al suo posto, lui scese dalle sue camere, accompagnato dalle gran signore dell'harem, dalle vedove, le sorelle, le cugine e le zie, paterne e materne. Dopo aver dato la mano ad Anna e a Louis, Sua Maestà spiegò la natura della riunione. Stava per conferire ad Anna un'onorificenza che non era mai stata data a uno straniero. Le veniva attribuita per la devozione dimostrata a sua figlia e per il coraggio e la condotta, sono parole sue, tenuti sul letto di morte della sua amata figlia reale, Somdet Chao Fai Ying. Dopo aver chiesto ad Anna di rimanere seduta, scelse con cura diversi fili di cotone che fece passare sulla sua testa e sopra i libri della bambina morta. Pose l'estremità di ogni filo nel palmo di ciascuna delle sue sette sorelle maggiori. Compiuto ciò, fece ondeggiare con movimento ritmico e formale alcune monete d'oro e lasciò cadere 21 gocce d'acqua da una conchiglia di osso incastonata di gioielli. Alla fine, a bassa voce, cantò un passaggio in sanscrito, poi mise in mano ad Anna una piccola borsa di seta e la insignì del ruolo di Chao Kun Kru Yai, l'insegnante più eccellente. In seguito lei scoprì che la borsa conteneva un titolo nobiliare con la proprietà di diversi ettari di terra. Decise di lasciare la terra ai suoi abitanti, tigri, elefanti, rinoceronti, armadilli e scimmie, e lei si contentò di continuare a lavorare sodo. Era più abituata all'opposizione e al duro lavoro che all'adulazione, al punto che l'unica sensazione che provò durante la cerimonia fu di sconforto e di paura di rendersi ridicola. Cosa sembravo, boy? Chiese a Louis mentre tornavano a casa, con dei nastri in testa, un pacco del droghiere? Sciocca mamma, ridacchiò lui.